Vedo che abbiamo accolto in tanti l'invito del dottor Aceti ad iscriverci a questa scuola a genitori per cercare di conoscere un po' di più i nostri figli. E questa sera ci accompagnerà nella scoperta dei bambini piccoli fino all'età scolare la dottoressa Mara Staffiero, che è una collaboratrice del dottor Aceti. Poi gli incontri della scuola continueranno, riprenderanno a febbraio, marzo e aprile. Vi anticipo già adesso che l'incontro di febbraio non sarà qui al Baretti, ma sarà molto probabilmente nell'aula magna della sede di Mondovì del Politecnico di Torino. Quindi voi ci avete lasciato le vostre mail, chi non l'avesse lasciata lo faccia adesso, e così vi daremo la conferma del luogo in cui si terrà. Invece per il programma di questa sera adesso abbiamo un'ora di tempo per sentire la relazione della dottoressa e poi altrettanto tempo, un'altra bella ora per farle delle domande, chiacchierare e così confrontarci. Quindi auguro a tutti buona serata. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Sono molto contenta di essere qui, siete numerosissimi, il dottor Aceti mi aveva anticipato insomma, che c'era stata una buona partecipazione anche al primo incontro e sono contenta che anche questa sera siate numerosi. Appunto, come si diceva nella presentazione, questa viene definita scuola genitori, no? E quindi, come dire, sono degli incontri per mettere a fuoco, inquadrare, diciamo così, delle tematiche relative ai propri figli, ai bambini, in modo da esercitarsi su un piano anche più razionale, a volte più oggettivo, nel proprio ruolo. Cosa che, insomma, fare il genitore è una cosa molto complessa, molte volte si dice che è una cosa che si deve imparare, no? Quindi, per assurdo, nel nostro immaginario sono i bambini che vanno a scuola di solito. In realtà il dottor Aceti ha deciso di stravolgere questa visione mandando a scuola i genitori, no? Perché lui spesso dice nelle sue presentazioni che è vero, il bambino deve comprendere alcune dinamiche, crescere e inquadrare la realtà, ma è anche il genitore a volte che deve riuscire a fare un movimento per mettersi nei panni del bambino. Allora, questo è il secondo incontro quindi di questa scuola, diciamo così, definiamola così, poi ce ne saranno altri tre. Questa sera nello specifico io tratterò quello che è lo sviluppo del bambino dall'età, dalla nascita, diciamo così, all'età scolare. La mia presentazione sarà sullo sviluppo quindi fino alla fine sicuramente della scuola primaria, la scuola elementare, e poi farò un accenno alla scuola di secondo grado, quindi la scuola media, per non toccare però quelle che sono le dinamiche adolescenziali, che sono sempre molto complesse, molto accese, quindi le lascio volentieri alla mia collega che verrà nell'ultimo incontro, verso la primavera. Allora, questa sera quindi partiamo con questa tematica, affrontando quella che viene definita l'età evolutiva. L'età evolutiva in quanto è un continuo evolvere, è un continuo potenziare, accrescere le proprie capacità da parte della persona. Infatti noi sappiamo che dagli 0 ai 18 anni, è così che si definisce l'età evolutiva in questa fascia d'età, la persona e la personalità sono poco formate, quindi molto più flessibili, molto più elastiche, molto più capaci di affrontare il cambiamento e di modificarsi in base a fattori ambientali ai quali la persona va incontro. Questa età evolutiva è al suo interno divisa in altre fasi che possiamo definire della prima infanzia, dove il bambino ha delle competenze precise che dopo vedremo, nella fanciullezza o età di latenza che va dai 6 ai 10 anni e nella preadolescenza che va dai 10 ai 13, quindi proprio la fascia dove il bambino bambino che sta diventando un ragazzino, entra nella scuola media e poi c'è l'adolescenza. In teoria dopo i 18 anni dovrebbe iniziare l'età adulta. Adesso sappiamo che questa cosa è un pochino ritardata negli anni, nella società in cui ci troviamo, però appunto noi, come vi dicevo, affronteremo proprio la prima fase dello sviluppo, quindi da quando il bambino nasce a quando entra a far parte del mondo e della società attraverso ad esempio la scuola dell'infanzia. Poi entreremo più nello specifico di quelle che sono le dinamiche che si mettono in moto quando il bambino entra a far parte di quello che diventa un mondo un pochino più produttivo, che è la scuola primaria, elementare, per poi entrare nella preadolescenza, e lì ci fermiamo. Allora, una premessa che ci tengo a fare è questa, che la nostra serata si baserà su un'idea ben precisa di bambino. L'età evolutiva, così come come dire, la psicologia in generale, non solo dell'età evolutiva ma anche della persona adulta, può essere divisa in due rami, diciamo così. Allora, c'è una parte che si basa di più su quello che è il comportamento dell'essere umano, che viene definito orientamento del comportamentismo, dove la persona diventa, si parte dal presupposto che la persona sia plasmata dall'ambiente che lo circonda, praticamente, che la circonda. Questa nostra serata invece partirà da un altro presupposto, che è quello del costruttivismo, cioè il presupposto che il bambino non sia tabula rasa, che non siano gli elementi esterni a influire esclusivamente su quelle che sono le dinamiche della persona, ma il bambino stesso diventa personaggio attivo nella realtà che vive, nell'ambiente che si trova a vivere e ad affrontare. In questo senso riprendiamo delle teorie come quelle di Piaget, di Vygotsky, che sono studiosi dell'età evolutiva, psicologi dell'età evolutiva, che hanno visto il bambino attivo rispetto alla realtà. E dopo entreremo più nello specifico su che cosa, quali sono le fasi dello sviluppo che loro hanno delineato e su che cosa si intende con un atteggiamento attivo. Un'altra piccola premessa prima di partire. Lo sviluppo del bambino, che noi affronteremo questa sera, non può prendere in considerazione soltanto una parte della persona, ma le parti che noi considereremo saranno diverse, per arrivare a completare una visione un pochino più organica e articolata della personalità. Prenderemo in considerazione l'affettività della persona, la cognizione, la socialità, quindi la capacità del bambino di creare delle relazioni, dei rapporti affettivi, le sue capacità, le sue competenze, ad esempio scolastiche, motorie e quant'altro, e la sua capacità di creare rapporti nel gruppo con i coetanei, quindi di inserirsi nella società a pieno titolo. Ecco, questo ve lo dico perché per noi psicologi, io sono una psicologa dell'età evolutiva ma anche psicoterapeuta infantile, e molto spesso mi trovo a vivere delle situazioni dove ci si rende conto che è proprio importante riuscire a tenere insieme tutte queste parti. Ad esempio, nelle mie valutazioni psicodiagnostiche a volte, io mi rendo conto che ci sono bambini molto avanti dal punto di vista cognitivo, per esempio, che però hanno lasciato indietro tutta una parte molto importante, e quindi sul piano affettivo sono ancora bambini piccoli. Vi faccio un esempio concreto, così magari si capisce meglio. In questo momento mi trovo a seguire, a fare una terapia di sostegno, una psicoterapia di sostegno, con una bambina di 10 anni, che quindi sta frequentando la quinta elementare. Questa bambina è bravissima, a scuola ha dei risultati impeccabili, però manifesta un sintomo molto particolare, perché lei ad esempio di notte si alza verso le 2 o le 3 di notte e va nel lettone dai genitori per dormire con loro. Il problema, tra virgolette, che poi non è un problema, perché il sintomo del bambino è sempre una comunicazione che il bambino ci sta facendo, quindi etichettarlo come un comportamento problematico è veramente molto riduttivo e riprende un po' quella visione che vi dicevo prima, dove la persona come dire, viene plasmata dall'ambiente esterno ma non interagisce. In realtà anche il sintomo, quindi il comportamento che diventa disfunzionale, assume delle caratteristiche importanti, perché diventa una comunicazione. Allora questa bambina si alza, va nel lettone della mamma e del papà e dice, quando parla con me in studio, dice: ma io non so perché lo faccio, perché io non mi accorgo, quindi si tratta di sonnambulismo. Allora, questa bambina che è molto brava a scuola, è molto efficiente, ha degli interessi già ben sviluppati, degli hobby particolari e ha tutta una serie di preferenze rispetto ad esempio ai suoi compagni, è una bambina che però vive delle insicurezze profondissime su quello che è il piano affettivo e anche della socialità. Tant'è che a scuola fatica molto a integrarsi con i suoi compagni, non perché sia una bambina antipatica o che ricerca poco gli altri, ma semplicemente perché i suoi compagni la vedono a volte come un alieno, perché lei è quella che chiede di fare i temi, di fare i problemi, piuttosto che chiede all'insegnante di dare più compiti, più esercizi, di allenarsi e così via. Per cui i compagni, capite bene, che dicono: no, ma aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va, e allora magari le rubano la merenda, le fanno degli scherzi, e tendenzialmente lei va più d'accordo con i maschi rispetto alle femmine, ad esempio, che è un'altra caratteristica. Insomma, io con questa bambina sto lavorando per recuperare un po' questo piano che lei ha lasciato indietro. Addirittura mi raccontava che lei ha una scrivania grandissima, perché così quando andrà all'università sarà già pronta, insomma, non dovrà cambiarla e così via. Allora, quello che io stavo cercando di far, questo è un esempio, come dire, estremo, non a caso è arrivato all'attenzione di uno psicoterapeuta, però quello che voglio farvi capire è che nello sviluppo del bambino ci sono delle disarmonie a volte, delle disarmonie tra questi diversi piani, che non sono necessariamente problematiche, semplicemente sono funzionali di quello che è lo sviluppo, la crescita della persona. Se voi ci pensate, anche noi a volte ci troviamo a vivere le situazioni in un modo poco armonico, poco equilibrato, cioè ci troviamo ad esempio a vivere delle cose in modo molto razionale, perché questo ci permette di essere più efficienti in quel caso lì, lasciando fuori quella che è una parte emotiva, magari importante, che potrebbe andare a completare quella prestazione, ma per paura, per difesa e quant'altro, a volte si tende a scindere i diversi piani. Ecco, quello che bisogna fare col bambino è aiutarlo a portare avanti in un modo integrato, mi viene da dire, tutte queste parti, perché è questo che poi crea forma una persona completa e capace anche di interagire con se stesso e con l'ambiente esterno. Ecco, passiamo ora a quelle che sono le caratteristiche dei bambini molto piccoli. Prima mi si diceva che appunto questa serata era stata pensata appunto per i bambini della prima fase, quindi della prima infanzia. Quindi la nostra presentazione parlerà anche di questo aspetto, si dilungherà un po', appunto, anche su, vi dicevo prima, su quella che è la scuola primaria e anche la secondaria di primo grado, quindi la scuola media. Allora, i bambini molto piccoli nascono, vi dicevo già prima, per la nostra visione costruttivista, già con delle competenze. Ultimamente le neuroscienze hanno fatto delle scoperte eclatanti da questo punto di vista. Sono arrivati a scoprire quelli che vengono definiti neuroni a specchio. Quindi nella mente del bambino, alla nascita, sono già presenti delle cellule che si mettono insieme, formano delle reti neuronali che corrispondono a quelle che sono le azioni delle persone che stanno vicine al bambino. Ad esempio, la madre del bambino molto piccolo si avvicina a lui e fa un sorriso, nella mente di questo bambino si accende quella rete neuronale che corrisponde al sorriso. Questo dimostra, e sempre di più si va in questa direzione, che l'essere umano è programmato per la relazione e che quindi non è vero che il bambino è tabula rasa, che nasce, non sa fare niente e che tutto quello che viene da fuori andrà a plasmarlo, a plagiarlo e così via. Anzi, è un bambino già attivo. Ogni bambino, ad esempio, nasce con un temperamento molto particolare e molto suo, con un'inclinazione già precisa. Voi lo sapete, ci sono bambini molto diversi uno dall'altro. Chi ha più figli si può rendere conto benissimo che ci sono bambini molto più attivi e altri che invece sono più calmi già dalla nascita, che hanno bisogno dei loro ritmi, che vogliono solo mangiare, poi essere messi a letto, poi rimangiare quando è ora. Quindi sono già più, richiedono già più un ordine, un ritmo, altri bambini che invece sono proprio anche a livello motorio molto irrequieti. E quindi ci sono proprio delle caratteristiche, delle differenze individuali che vanno tenute presente già dalla nascita e che il genitore deve accogliere come differenze importanti da tenere presenti per iniziare a conoscere il proprio bambino. Quindi, come vi dicevo, il bambino nasce già competente e le competenze di questo bambino possono evolvere grazie all'interazione con il mondo circostante. Poi cosa succede? Che il nostro bambino inizia a interagire con l'ambiente in questo modo, dapprima vedendo tutta la realtà come una realtà che serve a lui, perché il bambino piccolo ha bisogno di nutrirsi, ha bisogno di essere cambiato, ha bisogno di accudimento, ma, come accennavo prima, il bisogno primario rimane comunque quello del rapporto. Spitz, che è uno psicanalista che ha fatto degli studi approfonditi sui bambini, soprattutto sui bambini che erano in orfanotrofio, quindi in situazioni di deprivazione da un certo punto di vista, nel senso che non avevano i genitori, si è reso conto nei suoi studi di molti anni, quindi molto prolungati, che questi bambini addirittura, non avendo il caregiver, quello che viene definito caregiver, quindi la figura di riferimento, erano bambini molto sofferenti. In che senso? Che nonostante venisse loro proposto un nutrimento, quindi un biberon con latte, da parte di un'altra figura, un'educatrice dell'orfanotrofio, piuttosto che, questi bambini rifiutavano il cibo e a volte tentavano di lasciarsi, cercavano di lasciarsi morire, perché il bisogno primario dell'uomo non è quello del nutrimento, ma è quello della relazione, della cura, dell'accudimento. E in effetti questo è proprio il compito primario del genitore, della madre in genere, che nei primi tempi di vita di un bambino è la figura primaria di riferimento. Il padre è importante, vedremo dopo che è ancora più importante ad un certo punto dello sviluppo. In questa fase, in ogni caso, è fondamentale. In che senso? Il padre costituisce quella che Winnicott era un pediatra, lavorava in ospedale, vedeva un sacco di mamme con bambini e a sua volta era genitore e anche genitore affidatario, nel senso che aveva preso in affido dei bambini e a volte anche adolescenti, per cui scrive delle cose molto interessanti su queste esperienze. Winnicott definisce la funzione del padre in questa fase come una funzione di holding, cioè di contenimento della coppia madre-bambino. Quindi non è vero che il padre in questa prima fase di sviluppo, quindi proprio il primo anno di vita, non c'entra con quello che sta accadendo. C'entra tantissimo, perché è quella figura terza che riesce a costituire, come immaginate, una terza figura che abbraccia la coppia madre-bambino. Io non so se avete in mente quella immagine, quel quadro di Klimt che raffigura molto bene questa cosa. Quindi c'è la mamma col bambino e dietro c'è proprio questa figura terza che riesce a creare uno spazio protetto per questa coppia. Per questa coppia che si sta formando, perché nei primi tempi di vita è una vera e propria coppia. C'è una dipendenza fortissima del bambino dal genitore, dalla madre. Perché dicevamo? Perché il bambino è un agglomerato di bisogni, per cui cosa succede? Che il mondo esterno deve rispondere a questi bisogni. Quando il bambino piange, piange per un motivo. La madre deve essere brava, deve essere in grado di raccogliere il pianto del bambino, mettere su di sé l'ansia che questo comporta e restituire un messaggio di sicurezza. Molto spesso invece il pianto del bambino, appunto perché genitori ci si diventa e quindi nell'esperienza concreta poi si vivono le cose, il pianto del bambino crea una certa angoscia. Ci sono delle situazioni in cui ci sono stati, scusate, esperti, Bion ad esempio, che ha definito questo pianto come un pianto che rappresenta un terrore senza nome, perché a volte non si riesce a interpretare di che cosa ha bisogno quel bambino lì, perché non dorme la notte, perché piange. Allora ci si rivolge all'esperto, ad esempio, al pediatra, che ci può dare delle indicazioni. Si ha bisogno di un confronto per riuscire a dare un'interpretazione. Ecco, il ruolo della madre in questo momento è molto delicato e il bambino interpreta la realtà come una realtà fine a se stessa. La mamma deve essere molto brava a bilanciare le cose, nel senso che già da questo primo momento di vita il bambino può imparare la giusta dose di frustrazione, ad esempio. Se noi rispondiamo sempre immediatamente e addirittura anticipiamo quelle che saranno le richieste del bambino, il bambino si sentirà sempre più onnipotente. In realtà la madre non deve annullarsi per rispondere immediatamente, ma deve riuscire a tollerare a sua volta la frustrazione. E quindi, mi viene da dire, se ci sono dei bisogni primari come nutrirsi, andare in bagno, fare la doccia, piuttosto che, la madre deve essere in grado di dire: lo lascio piangere un momentino. Molto spesso invece entriamo in angoscia e quindi corriamo subito, temiamo di non essere cioè di non rispondere immediatamente a quello che è il bisogno, per cui tendiamo ad alimentare questo stadio, questo stato, diciamo così, di onnipotenza. In realtà la giusta frustrazione e il senso del limite si può iniziare a impartire, diciamo così, a quest'età. Ecco. C'è un passaggio poi nel secondo anno di vita, quando il bambino inizia a capire che non tutta la realtà è una realtà fine a sé e quindi che non esistono le figure esterne solamente per corrispondere ai propri bisogni, non esistono gli oggetti solamente in funzione di sé. Ma questi oggetti, queste figure esterne sono cose separate, che hanno una vita propria, autonoma, indipendente. Perché questo passaggio, che è un passaggio di cui parla Piaget? Piaget era un altro studioso molto importante che si è concentrato solo, esclusivamente sulla parte cognitiva, quindi lui parla proprio di quelli che sono gli stadi del pensiero. Piaget addirittura ha fatto gli esperimenti sui suoi figli, quindi aveva 3 figli e li ha studiati approfonditamente, facendo delle prove e quant'altro. È ancora oggi uno degli studiosi più importanti che viene, come dire, ricordato per quanto riguarda l'età evolutiva. E lui si è accorto che il bambino di 18 mesi fa un passaggio fondamentale nel pensiero, cioè quello di capire che l'oggetto esterno non è più fine soltanto a se stesso, ma è un oggetto che ha una vita sua, autonoma. In questo senso Piaget ci parla di quella che viene definita permanenza dell'oggetto. Quindi, che cosa significa questo concretamente per il bambino molto piccolo? Che nel momento in cui il bambino ha 18 mesi, noi come madri, come padri, possiamo essere sicuri che se ci allontaniamo da lui, lui porta dentro di sé la nostra immagine, la nostra presenza. Cosa vuol dire? Che il fatto che gli oggetti esterni siano separati vuol dire che il bambino riesce a rappresentarseli mentalmente e quindi a ricordare, avere un ricordo di questi oggetti anche quando questi non ci sono, non sono presenti. Quindi anche la mamma, quando si allontana, diventa una mamma che può ritornare, mentre nella prima fase dello sviluppo, quindi fondamentalmente nel primo anno, il bambino non ha questa concezione ancora, quindi se la mamma va via, la mamma va via per sempre. Per questo motivo è molto importante anche più avanti, ad esempio all'ingresso della scuola dell'infanzia, l'asilo, ricordare sempre al bambino che insomma quell'esperienza dell'asilo, anche se il bambino ha già la permanenza dell'oggetto, quindi sa perfettamente che la mamma potrà tornare, però ricordargli che la mamma tornerà alle ore, non so, 3, dicendo passerà un po' di ore, passerà un po' di tempo, il bambino non ha ancora la concezione delle ore, però insomma spiegargli l'arco temporale che lui dovrà passare alla scuola dell'infanzia, dicendo che poi la mamma ritornerà. Perché dico questo? Perché per il bambino imparare a gestire la separazione E la separatezza dall'altro è un compito molto arduo, molto impegnativo, difficile. Tra l'altro questa cosa capita nella prima fase dello sviluppo, ma capita poi per tutta la vita. Per nessuno è facile gestire la separazione. Ci sono persone, tra l'altro, più inclini e altre meno. Ci sono persone molto resistenti al cambiamento e alla separazione. Persone che invece sono un pochino più flessibili anche per le esperienze che hanno avuto. Per cui in questa prima fase si gioca proprio anche a livello di importanza la possibilità da parte del bambino di imparare a gestire bene questi andirivieni, no? La mamma c'è, poi torna, il papà va a lavorare e poi ritorna. Ed è qualcosa che va molto verbalizzato e gestito col bambino. Noi a volte diamo per scontato che lui possa viverlo in un modo naturale, un po' sciolto, come forse può essere per gli adulti, ma questo non è sempre così. Quindi, appunto, la rappresentazione dell'oggetto garantisce al bambino di poter iniziare questo processo. Se nei primi anni di vita, tra l'altro, le cose vanno relativamente bene, e ripeto, non per semplicemente per cause ambientali, quindi il tipo di relazione piuttosto che i genitori, ma proprio per una parte che ci mette il bambino, una parte che ci mette l'ambiente, il bambino sarà più capace di gestire proprio questi cambiamenti e queste separazioni. Bowlby, che è un altro esperto dell'età evolutiva, ci parla di attaccamento. Molti di voi forse avranno già sentito parlare di questo. L'attaccamento sicuro o insicuro? Ci sono bambini che nella prima fase della vita riescono a sviluppare un attaccamento sicuro e di conseguenza vivono molto bene i passaggi che verranno successivamente. Bambini che invece riescono poco a metabolizzare il cambiamento, addirittura alcuni studi ci parlano del primo cambiamento in assoluto, che è quello della traslocazione fisiologica del parto. Ci sono bambini, e a volte questo determina purtroppo patologie molto importanti, quali l'autismo, che sentono al momento della nascita una perdita del proprio corpo, perché sentono una perdita, come dire, come se il corpo materno fosse una perdita di se stessi. Questi bambini, ad esempio, andranno aiutati, dovranno essere, come dire, riconosciuti nella loro fatica per poter essere guidati invece a metabolizzare sempre di più i passaggi che poi verranno di separazione, di cambiamento, di cambiamento proprio della realtà circostante. Ad esempio, recentemente mi è capitato in studio di incontrare due genitori che avevo già visto nel momento in cui avevo fatto una consultazione in una scuola, in uno sportello d'ascolto. Questi genitori sono venuti in studio chiedendomi di aiutarli a capire quello che stava accadendo col loro bambino, che in questo momento ha 1 anno e mezzo. E io, come psicoterapeuta infantile, all'inizio mi sono concentrata prevalentemente sul rapporto tra loro e il bimbo, per capire se eventualmente sostenendoli o aiutandoli a sviluppare anche proprio una pazienza e una capacità di interpretare la situazione a 360 gradi, la situazione potesse migliorare. Effettivamente, come dire, loro hanno fatto un bellissimo movimento, anche introspettivo, perché poi, voi lo sapete bene, nella pratica con i propri figli bisogna mettersi in discussione, bisogna farsi delle domande e bisogna guardarsi dentro per capire che cosa sta succedendo in quel momento lì, cioè affinare quella capacità che viene definita di pensiero, che non è assolutamente una capacità razionale, ma è un'altra cosa, dopo magari vedremo bene nello specifico di cosa si tratta, per poter comprendere quella situazione. E vi dico che questi genitori, molto ben disposti, sono riusciti da subito a fare dei bei passaggi, e quindi a capire che magari con Andrea, così si chiama questo bambino, loro potevano mettere in atto degli atteggiamenti un po' diversi per cercare di ottenere da lui delle risposte anche differenti. Questo bambino, nonostante tutto, ha continuato ad essere molto aggressivo, ad essere ad avere quelle che vengono definite stereotipie, quindi ad esempio col fratellino più grande, che adesso ha 10 anni, nel momento in cui avvertiva dei cambiamenti, ad esempio questo bambino ha messo gli occhiali e lui continuava ripetutamente a togliergli gli occhiali dal viso, a graffiarlo, a morderlo, e questo anche con i genitori, addirittura quando c'era il passaggio tra la madre e la nonna, che perché la mamma andava a lavoro e lasciava il bambino alla nonna, Andrea chiudeva gli occhi e era come se si scollegasse in quel momento dalla realtà. Così come tutti i viaggi, i cambiamenti lunghi, questo bambino tendeva a cambiare completamente il suo carattere, quindi ad essere molto passivo, molto depresso e poco interattivo con la realtà. In questo senso io ho cercato di capire con i genitori se bastava un loro prendere in considerazione la situazione da un altro punto di vista per cambiare un po' le cose, ma questo non è bastato. Andrea ha continuato a far fatica ad essere resistente a questi cambiamenti, appunto. Per cui li ho indirizzati ad un approfondimento neuropsichiatrico, dove grazie all'incontro di un neuropsichiatra questo bambino potrà essere valutato in questa fatica che sta facendo e quindi anche aiutato. In questo senso l'esperto, comunque il neuropsichiatra, non ha le risposte in tasca, quindi non è che perché questi genitori andranno dal neuropsichiatra allora la situazione magicamente si risolverà. Semplicemente facendo un percorso approfondito, approfondendo anche quelli che possono essere gli aspetti neurofisiologici e così via, si può ottenere uno spazio dove è possibile un confronto positivo, e quindi grazie a quella persona che ci segue in un cammino noi possiamo sentirci più sollevati, più sicuri di fare la cosa giusta perché condivisa e non soltanto una cosa che dipende esclusivamente da noi. Anche perché, e Winnicott questa cosa la diceva bene, il rapporto col proprio figlio riesce se noi riusciamo con lui a creare uno spazio terzo e quindi un'area terza tra noi e lui, e questo succede in tutte le relazioni, anche in età adulta, dove in quello spazio non ci sono solo io o non c'è solo il bambino, ma c'è qualcosa di tutte e due, quindi una realtà diversa da noi due. Quella è la relazione e non, quel rapporto che tende a farci vedere l'altro come siamo noi, quindi forse troppo proiettivo, dove noi mettiamo sul nostro bambino delle aspettative o dei comportamenti o diamo delle interpretazioni che sono invece affini a come noi funzioniamo e non a come potrebbe funzionare lui. Perché, tornando a prima, il bambino nasce già con un suo temperamento, nasce già con sue caratteristiche. Quello che noi dobbiamo saper fare, ed è questo il compito più difficile, è aiutarlo a sviluppare e a rinforzare queste competenze, queste caratteristiche. E quindi dobbiamo essere proprio dei formatori. Cosa vuol dire? Aiutare a tirar fuori quella parte molto personale che in potenza il bambino già racchiude in sé. Quindi, appunto, dicevo, in questo caso, nel caso di Andrea, la necessità è stata quella di inviarlo per un approfondimento, già così piccolo. Questa cosa l'ho imparata anni fa, durante uno sportello, quando una mamma mi ha detto: sa, io ho un altro figlio che sta andando dal neuropsichiatra, è molto piccolo. Io sentivo che con mio figlio c'era sempre una spanna di distanza nella relazione, io non riuscivo a entrare in rapporto con lui. Ecco, questa signora mi ha insegnato proprio che effettivamente anche già quando il bambino è molto piccolo ci si può fare delle domande, ci si può mettere in gioco, ci si può mettere in discussione. E purtroppo, appunto, o per fortuna, il rapporto col proprio figlio non è mai alla pari, perché sì, si deve creare una relazione per cui si crea anche un'area terza, che Winnicott definisce anche di gioco, ma poi è il genitore che deve avere una funzione di pensiero in più per poter guidare il bambino. Ecco, quindi, tornando al secondo anno, il nostro bambino finalmente riesce a separarsi e a in questo modo fare delle esperienze rispetto alla realtà. La rappresentazione che cosa permette? Permette al nostro bambino di iniziare tutte quelle funzioni che sono fondamentali per la sua vita. E qui riprendiamo un attimino quello che vi ho detto prima, la capacità di pensare. Anche per noi adulti la capacità di pensare non è esclusivamente una razionalizzazione della realtà. Quindi non è che se noi utilizziamo bene la logica e facciamo dei bei discorsi e prendiamo in considerazione tante cose, allora sappiamo pensare. La capacità di pensiero è qualcosa che include la nostra razionalità, ma anche la nostra emotività e anche i nostri stati d'animo. Questo non accade sempre e il bambino è una cosa che deve imparare a fare. Impara a fare questo passaggio, appunto, di pensiero grazie a degli strumenti e grazie appunto a questa prima tappa, la rappresentazione. La rappresentazione permette al bambino di sviluppare quello che viene definito gioco simbolico, quindi di utilizzare i simboli, gli permette di utilizzare le immagini e anche le parole e quindi di iniziare ad evocare una realtà che non è presente attraverso il linguaggio. Quindi il nostro bambino può raccontare alla mamma, al papà, che cosa è successo all'asilo, anche se non sta vivendo quella situazione in quel momento lì. In questo senso, per il bambino, ad esempio, il gioco diventa una vera e propria attività. È un po' come per noi adulti il lavoro. È qualcosa di fondamentale, di indispensabile. Diventa un momento in cui il bambino riesce a vivere tantissime situazioni anche emotive. Ad esempio, vi faccio un esempio, una bambina che ha paura del mostro può giocare al mostro e interpretarlo. Questo le permette di esorcizzare quella paura. Quindi il gioco diventa il canale, il veicolo per poter rielaborare, rimettere in gioco e quindi rimettere a posto tutta una serie di stati d'animo, di emozioni, di pensieri che altrimenti rimarrebbero un po' sparpagliati. Ecco, questa cosa qua è fondamentale per il bambino che entra alla scuola dell'infanzia. Infatti nella scuola dell'infanzia la situazione è molto a misura di bambino. Quindi ad esempio se voi siete entrati appunto all'asilo a prendere i vostri figli, piuttosto che magari ci lavorate e quant'altro, vi rendete conto che l'attività prevalente del bambino è proprio il gioco. E questi bambini utilizzano il gioco in un modo un po' anomalo, nel senso che se uno entra in una scuola dell'infanzia si rende conto che i bambini non stanno giocando veramente insieme, ma fanno dei giochi insieme giocando ognuno per conto suo. Sono molto da soli all'interno del gruppo. In questa fase non si crea ancora un gruppo ben, come dire, integrato, dove si rispettano dei tempi, dei modi, dove si condivide veramente. Ma ogni bambino mette in scena ed eventualmente propone delle situazioni perché gli servono per rielaborare, per vivere quelli che vengono definiti gli impulsi. L'aggressività, ad esempio, viene molto gestita all'interno di questi spazi di gioco e questo è molto importante. Tra l'altro, dai 3 ai 6 anni il bambino vive delle cose importantissime, nonostante noi a volte tendiamo a vederlo ancora come bambino molto piccolo, quindi sì, va bene, un bambino che deve seguire i genitori, deve seguire le indicazioni che gli vengono date e così via. In realtà, se voi ci pensate, anche solo l'ingresso, come dicevamo prima, la scuola dell'infanzia diventa un passaggio enorme, perché per la prima volta in assoluto il nostro bambino entra a far parte della società a pieno titolo, portando se stesso da solo. È vero anche che le insegnanti della scuola dell'infanzia sono un po' l'alter ego dei genitori, non siamo ancora come ai livelli della scuola primaria dove l'insegnante è proprio un'entità esterna, sentita anche proprio in modo autorevole, no? Ma la signorina dell'asilo o l'educatrice e così via viene sentita generalmente come un po' un prolungamento della mamma. In ogni caso è la prima esperienza che il bambino fa all'esterno. In questa fase succedono delle cose molto interessanti, perché ad esempio voi genitori avrete notato che il bambino molto spesso dice di no. Ecco, questo no è un passaggio fondamentale per il suo sviluppo. Spitz addirittura dice che il no diventa un organizzatore psichico per il bambino, quindi deve dire di no. dai 3 ai 6 anni il nostro bambino deve dire di no. La Klein definisce questa età come un'età indispensabile per potersi separare e individuare. Infatti, in famiglia, il bambino inizia a pretendere uno spazio come un individuo a sé e inizia, in questo senso, a nascere l'io della persona. Freud addirittura parlava di complesso edipico. Cosa vuol dire il complesso edipico? Vuol dire che finalmente i rapporti diventano triangolari, madre, padre e bambino. Non più mamma, bambino e il papà fa da holding, ma ci sono la mamma, il bambino e il papà. Il papà deve confrontarsi con il bambino deve confrontarsi con un rivale, la bambina con una rivale. Molto spesso in questa fase si sentono bambini che dicono mamma io mi sposo con te. E dopo la mamma dice beh sì, il papà dove lo mettiamo? Però ecco, è proprio in questa fase che le relazioni familiari vanno a definirsi ed è in questa fase che il padre entra in gioco a pieno titolo e in età di latenza, quindi nella scuola dell'infanzia, ancora di più, vedremo perché. Entra in gioco a pieno titolo dicendo guarda che la mamma è la mia compagna, non è tua moglie, tu sei il suo bambino, sei suo figlio, cioè la ridefinizione dei ruoli. In questa fase a volte ci sono degli intoppi perché ci sono bambini ad esempio che prendono il vizio di andare a dormire nel lettone. Mi capita di seguire delle situazioni purtroppo di separazione dove a parte la sofferenza proprio dei genitori, in questo momento sto seguendo una situazione di separazione dove questo papà ha la sua bambina con sé, affidata a lui, e dormono insieme perché la mamma è andata via e dormono insieme e io sto lavorando con lui per riuscire a far dormire Emma nel suo lettino perché la bambina non può immaginarsi come la compagna del papà. Deve immaginarsi come una bambina che ha il suo spazio, al suo letto, al suo ruolo, che è quello di figlia. E non può prendersi su di sé dei carichi da 90 e pensare di poter, come dire, compensare a quella che è una mancanza che l'adulto vive in quel momento lì. Per cui è proprio in questa fase che appunto bisogna stare attenti a quelli che sono i movimenti che il bambino cerca di fare per insinuarsi in una posizione sbagliata. E in questo senso, il dottor Cetti lo dice sempre durante le sue conferenze, i genitori dovrebbero proprio prendere degli spazi anche per sé e dimostrare al bambino che sono coppia oltre che essere genitori e non soltanto appunto genitori di. Anche questo restituisce al bambino il senso del limite. Diminuisce, diciamo così, un po' quel senso di anche onnipotenza che si può creare nella mente del bambino. E quindi, appunto, in questa fase, la fase del no, perché la fase del no, ad esempio? Perché, Piaget lo dice benissimo, il bambino in questo momento non prende in considerazione i punti di vista degli altri, perché ha una rigidità di pensiero che non gli permette di integrare i diversi punti di vista. Piaget lo definisce egocentrismo intellettuale, che è una cosa diversa dall'egoismo. Cioè, il bambino non è che non vuole o è egoista, il bambino non è capace. Il bambino seguirà quello che noi gli diciamo in questo momento soltanto se saremo particolarmente convincenti, ma in che modo? Se riusciremo a stargli vicini a livello affettivo e a proporci come figure di identificazione di cui lui si fida. Nel momento in cui il bambino ripetutamente dice di no, il genitore può comunque portarlo a fare quello che lui vuole, perché potrebbe essere andiamo dalla nonna, no, andiamo di qua, no, andiamo, cioè facciamo delle cose che dobbiamo fare, no, andiamo all'asilo, no, è tutto no. Il genitore deve essere in grado di contenere il no del bambino, portarlo a fare quello che lui chiede in quel momento lì, cercando di restituirgli però un messaggio ben preciso. Io ti voglio bene lo stesso anche se tu dici no, ti voglio bene lo stesso anche se tu esprimi la tua aggressività. Puoi dire no. Non è in questo momento che noi possiamo aiutare il bambino a ragionare sulle cose e a prendere in considerazione diverse possibilità e a integrarle tra di loro. Non è assolutamente in questo momento, ma sarà ben più avanti, sarà nell'età di latenza, verso gli 8 anni. Quando il bambino impara anche a comprendere il piacere del ragionamento, del prendere di vista possibilità differenti. E quindi, appunto, in questo momento c'è questa fase di egocentrismo intellettuale, la nascita dell'io, la fase del no. Più avanti, nell'età di latenza, le cose iniziano a cambiare. Allora, il nostro bambino, che appunto era la scuola dell'infanzia e aveva tutti i suoi spazi, come dire, destrutturati, quindi per giocare, per stare con i compagni e usare il suo egocentrismo intellettuale, giocando in fondo da solo, per esprimere la sua aggressività, i suoi impulsi, per usare ad esempio le sue abilità motorie, perché nei cortili delle scuole dell'infanzia si vedono questi bambini che si muovono molto, corrono, si sfogano. Ecco, da questo idillio, mi viene da dire, quindi mondo incantato, il bambino deve passare all'esperienza scolastica. L'esperienza scolastica che si colloca dai 6 ai 10 anni, quella che viene definita età di latenza. Ecco, latente significa rimanere nascosto, participio passato del verbo latere. Cosa vuol dire che il bambino dai 6 anni rimane nascosto? Vuol dire che se prima tutto era molto più vivace, il bambino poteva mettere in atto diversi impulsi, diverse sue la tendenza ad essere creativo ed era anche più libero, in questo momento il bambino deve diventare più produttivo. Ci sono delle richieste che noi facciamo ai bambini nella scuola dell'infanzia, a volte esagerate. Ci sono bambini che devono rendere bene, proprio come un adulto. Noi adulti dobbiamo essere produttivi in questa società. Il bambino deve fare lo stesso. Se prende 7 è un voto basso, se prende 8 non va bene, allora bisogna prendere tutti 10. Adesso esaspero la situazione, però a volte gli chiediamo veramente tanto. E il bambino cosa fa? Capisce che lui ha un compito importante e allora mette da parte il rimanere nascosto, mette da parte gli impulsi, mette da parte le emozioni, mette da parte tutta una serie di aspetti di sé, e abbiamo visto prima, per valutare quanto sia sano, tra virgolette, o comunque sereno un bambino, bisogna prendere in considerazione diversi aspetti. Li mette da parte per essere produttivo, per rispondere al compito. E per la prima volta il bambino fa questo passo da solo, in prima persona, dice: io vado a scuola. Quindi vive la sua storia in prima persona. Inizia quello che è un compito veramente, come si può definire, è un'odissea, cioè inizia a ricercare la propria identità. Voi sapete che il processo di identità di ogni persona, anche di un adulto, non cessa mai, fino ad un momento prima della morte, per dire. Quindi noi non sappiamo chi siamo fino alla fine. Quindi il processo di identità è qualcosa di veramente complesso. Un bambino inizia a chiedersi: ma io chi sono? Inizia a chiederselo nel momento in cui fa ingresso alla scuola primaria. È una cosa fondamentale che determinerà poi lo sviluppo di tutta la vita e anche, come si può dire, il modo in cui questo bambino si sentirà quando diventerà adulto, è lo sviluppo del senso di sé. Il bambino in questa fase, abbiamo visto, la scuola dell'infanzia, il bambino crea l'io. L'io è qualcosa di più razionale, di più organizzato, qualcosa che permette di essere corrispondente a quello che viene richiesto. Il sé è qualcosa di più complesso, è qualcosa che ha a che fare con come il bambino si sente, quanto valore sente di avere, quanto sente, ad esempio, il livello di amabilità, cioè quanto mi possono voler bene indipendentemente da quello che io rendo, ad esempio. Quanto sono io? Ecco, c'entra proprio con l'essere, con lo stato ontologico della persona. In questa fase il bambino ha questi grossi compiti da affrontare e sul piano affettivo succedono delle cose interessanti, cioè il bambino diventa più ragionevole e meno impulsivo, deve tenere a bada le sue emozioni per lasciare spazio a quello che diventa appunto un essere più produttivo, gli apprendimenti ad esempio. E molto spesso i sentimenti, gli affetti, le emozioni, i desideri, le paure rimangono confinati, nascosti, come abbiamo detto. Che in un certo senso è qualcosa di fisiologico, lo dicevamo prima, per riuscire a svolgere bene un compito bisogna anche saper tenere a bada la parte emotiva, perché sennò il livello d'ansia diventa esagerato e quindi quella cosa lì non si riesce più a fare bene. Quindi da un lato è fisiologico, dall'altro è qualcosa che noi adulti, noi genitori, dobbiamo tenere a mente, perché il bambino difficilmente ci dirà come si sente. Oggi, questa mattina, mi ha chiamato un genitore che seguo in studio, seguo la sua bambina, e dice: io ieri ho visto la mia bambina che non stava bene e quindi gli ho chiesto, ho continuato a chiederle, ma lei non mi dava risposta. No, perché il bambino sente che noi siamo troppo invasivi nel suo mondo emotivo. Noi non dobbiamo fare ripetutamente delle domande. Molto spesso mi capita, anche agli sportelli scolastici, parlare con i genitori e dire... I genitori dicono, ma lui esce da scuola, io gli chiedo, ma cosa hai fatto, come stai, cosa hai fatto, cosa è successo, cosa ha detto la maestra, cosa hanno fatto i compagni? Tutta una serie di domande e io dico, ma lei si è ricordato di chiedergli come sta? Quante volte noi ci troviamo a vivere delle situazioni anche abbastanza frenetiche, comunque difficili, eccetera, e l'unica cosa che ci interessa è che qualcuno ci chieda come stiamo, come ci sentiamo, ma senza pretendere una risposta. Qualcuno che ci faccia capire che è sintonizzato con noi, che gli interessa come possiamo stare a 360 gradi, non gli interessa se abbiamo preso 10, non gli interessa se la maestra ci ha dato la nota oppure no. Tante volte, infatti, anche rispetto a quello che possono fare le insegnanti, che è sempre giusto dal loro punto di vista, ed è sempre difficile condurre un gruppo, classe. Tra l'altro i bambini stanno diventando sempre più iperattivi, ad esempio la diagnosi di HD, quindi di iperattività e deficit dell'attenzione, è una diagnosi che viene fatta molto frequentemente e quindi le insegnanti fanno fatica, per cui magari possono utilizzare anche lo strumento della nota. Noi vedremo che appunto nella scuola della primaria la nota non dovrebbe essere usata. Tendenzialmente bisognerebbe utilizzare il rinforzo positivo, perché il bambino sta sviluppando il senso di sé e quella nota non fa bene. Ci sono bambini che dicono, ma io me ne frego, ma questo non è vero. Sono reattivi alla situazione, ma questo non è vero. Il senso del limite, il limite bisogna darlo, ma non bisogna utilizzare degli strumenti che tendano a svalutare quel bambino lì. Bisogna utilizzare degli strumenti che vadano a rinforzare, quindi poter dire, sono convinto che la prossima volta andrà meglio. Questa volta è andata così. Bene, hai fatto molto bene, sei stato bravo, proviamo a rivedere questa cosa qui però che è sbagliata. Quindi riuscire a vedere, a valutare il bicchiere mezzo pieno, perché se non riusciamo a farlo noi, i bambini non possono farlo, perché non ne hanno ancora gli strumenti. Quindi è molto meno facile scorgere, trovare l'inquietudine del bambino in questa fase. E tra l'altro l'ingresso alla scuola primaria è un passaggio molto problematico, nel senso che il bambino a volte tende ad assumere dei comportamenti regressivi, perché è una cosa molto faticosa. Ci sono bambini che non lo fanno da anni, eppure entrano in prima elementare e chiedono il biberon. Una richiesta assurda. Genitori che arrivano e dicono, ma mia figlia mi ha chiesto di bere il latte col biberon, poi non gliel'ho dato. Però, vedete, una richiesta che sembra estemporanea, quasi, come dire, ma cosa mi ha chiesto? Poi non ha più chiesto niente di simile, però... Vedete, ci sono delle regressive fughe indietro, cioè scusate, ritorni al passato, per, come dire, andare a ricercare delle sicurezze che il bambino sente di aver perso in quel momento lì. E questa, se ci pensate, è una cosa che facciamo anche noi adulti, quando ci troviamo a vivere situazioni di passaggio, di cambiamento. Cambiamo lavoro, ok, nel ritorno a casa ci sentiamo di dover fare una cosa come se fossimo un po' regrediti, cioè è qualcosa che le sicurezze, ritrovare il proprio ambiente, ritrovare delle sicurezze del passato è qualcosa che fa bene al bambino. Ad esempio questa bambina di cui vi parlavo all'inizio, che ha un ottimo rendimento scolastico, è molto efficiente e tra l'altro ha un linguaggio veramente sviluppatissimo, più sviluppato del mio, ogni tanto mi vergogno a parlare con lei perché mi mette in imbarazzo, è veramente una bambina intelligentissima anche dal punto di vista verbale. Ad esempio ha tenuto il ciuccio fino in prima elementare. Vedete che proprio non ci sta questo divario, questa forbice, no? Da un estremo all'altro. Allora bisogna tenere presente che il bambino tende a fare queste fughe indietro. In questa fase le cose cambiano a livello di pensiero, l'abbiamo accennato prima. Anche Piaget lo dice, adesso il bambino è capace di fare delle operazioni, il suo pensiero diventa reversibile. Il bambino riesce finalmente a mettersi nei panni degli altri e a prendere in considerazione più punti di vista insieme. Quindi può prendere in considerazione che la mamma in quel momento lì gli dice di andare dalla nonna perché è necessario, devono fare delle cose, e lui deve mettere da parte quello che stava facendo. Può prendere in considerazione che deve dare il suo giocattolo preferito, glielo presta la sorella perché lo tiene 5 minuti e poi lo riprende. Cosa che prima, nella scuola dell'infanzia, il bambino non è assolutamente in grado di farlo perché dice «Ma questo gioco è mio, perché devo darlo a lei?» E quel mio diventa un mio totale, cioè nella sua mente non esistono altre possibilità. Per questo bisogna essere sempre molto bravi, sempre capaci di tenere insieme tanti aspetti. Per cui il bambino a questo punto invece inizia a essere capace di fare questa cosa, quindi di avere un pensiero più reversibile e di mettere insieme tanti punti di vista differenti, che vengono coordinati e può anche cambiare idea. Quindi si passa gradualmente da quello che è un pensiero concreto ad un pensiero invece formale, che vedremo spiccherà proprio nella fase della preadolescenza. Ecco, inoltre il bambino inizia a essere molto critico, avere una visione storica sia di sé che degli altri e ad essere anche critico nei confronti dei genitori. Ci sono bambini in età di latenza che magari mentre il genitore proprio non si accorge, cioè non se lo aspetta, tirano fuori cose del tipo ma tu sei sempre, caratteristiche del genitore che il genitore dice cavolo, è la prima volta che mi dice una cosa del genere, perché il bambino inizia a ragionare e quindi se prima pendeva dalle nostre labbra, adesso inizia a mettersi proprio nel rapporto facendo delle osservazioni molto sue, molto personali, diventa un piccolo scienziato, sperimenta, studia, eccetera. Ecco, anche lo sviluppo relazionale in questa fase, andiamo via un po' veloci così poi c'è anche il tempo per le domande, perché penso che sia già passata un'ora, giusto? Proviamo a vedere che ore sono per capire anche i tempi. Ah, ok, perfetto. Ecco, anche lo sviluppo relazionale in questa fase, quindi della scuola primaria, la latenza, inizia a rinforzarsi. È proprio in questa fase che... ad esempio, per gli psicologi è positivo, importante fare nelle scuole quelli che vengono definiti progetti sulla prosocialità, cioè aiutare il bambino a stare con gli altri, mettendosi dal punto di vista degli altri, quindi in modo più empatico, entrare in empatia con gli altri, riuscire a comprendere anche gli stati d'animo dell'altro. Ad esempio, un esercizio molto bello che si fa, proposto dalla Erickson, che propone sempre appunto delle cose molto concrete poi da fare con i bambini, è quello di distribuire ad una classe di bambini una sagoma bianca, dove loro scrivono, ad esempio, utilizzando il colore, con il rosso segnano su questa sagoma, quindi su questa persona, dove sono arrabbiati, dove vivono la rabbia, dove vivono la gioia, dove vivono la felicità, dove vivono la tristezza. Queste sono le emozioni primarie. E alla fine si prendono tutte queste fotocopie e si attaccano su un cartellone e si dimostra al bambino che ognuno vive le cose in modo diverso. E non per questo c'è una cosa giusta e una sbagliata, ma ci sono delle diversità che vanno rispettate, anche proprio all'interno di un gruppo. Tra l'altro, grazie al lavoro di gruppo che viene fatto in questa fase, il bambino può imparare i divieti, ad esempio, i limiti, le regole, e questo diventa funzionale poi per il dopo, dove il gruppo assumerà una valenza ancora più importante. Infatti, nella preadolescenza, quindi all'ingresso della scuola media, 10-13 anni, il gruppo diventerà uno strumento fondamentale per il nostro ragazzino di identificazione. In questa fase addirittura viene fatta quella secondo step, diciamo così, rispetto alla separazione e individuazione, quindi il ragazzo che fino ai 10 anni ha tenuto nascoste i suoi stati d'animo, i suoi impulsi e tutto quanto, esplode in una serie di comportamenti che sono emblematici di qualcosa che lui ha bisogno di esprimere. e che sono funzionali, cioè gli servono per separarsi e individuarsi in un modo più radicato rispetto proprio ai genitori, ad esempio, alla propria famiglia. Ed è proprio laddove le cose vanno bene, quindi dove c'è un legame affettivo forte, che il ragazzo sente di potersi esprimere maggiormente. Quindi tante volte dei genitori dicono: ma dove ho sbagliato? No, in realtà nessuno ha sbagliato da nessuna parte, semplicemente il ragazzo provoca quel rapporto lì perché sente che quel rapporto può reggere, può essere un rapporto in grado di reggere il suo desiderio di differenziarsi, di diventare un individuo a sé. Quindi in questo senso c'è proprio la seconda fase di separazione e individuazione, e il gruppo serve per fare un po' da cuscinetto di questo processo. Per questo in questo momento storico è importante proporre al ragazzo delle attività molto positive, come possono essere attività di gruppo proposte dall'oratorio, piuttosto che centri di aggregazione, piuttosto che altro, quello che vi viene in mente, che a voi sembra positivo e costruttivo per vostro figlio, dove può incontrare delle persone con le quali lui potrà identificarsi positivamente. Ecco, io finirei la presentazione con una frase, ma in realtà inserita proprio in una parte scritta, del poeta Khalil Gibran, che parla del ruolo dei genitori nello sviluppo. Lui scrive così, a me è piaciuta molto questa parte, quindi l'ho riportata proprio come conclusione del nostro discorso, prima di lasciare spazio a quelle che saranno le vostre domande per creare un dibattito. Lui scrive: i vostri figli non sono figli vostri, sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi, e benché vivano con voi, non vi appartengono. Potete donare loro amore, ma non i vostri pensieri. Essi hanno i loro pensieri. Potete dare rifugio ai loro corpi, ma non alle loro anime. Esse abitano la casa del domani, che non vi sarà concesso di visitare neppure in sogno. Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi. La vita procede e non s'attarda sul passato. Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccate in avanti. L'arciere vede il bersaglio su un sentiero dell'infinito e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. Affidatevi con gioia alla mano dell'arciere, poiché come ama il volo della freccia, così ama la fermezza dell'arco. E noi per i nostri figli dobbiamo essere archi fermi e fiduciosi che la mano dell'arciere mantenga la sua sicurezza. Ecco, io concluderei così la presentazione che ho pensato per voi questa sera, e magari prendetevi qualche minuto e poi magari iniziamo con la parte del dibattito. Grazie.